parti divise l'ora nel viver tuo misura e vedi. Vedi il tempo caduto, vedi ingrato il rifiuto dei lumi eterni e vedi il proprio errore. Vedi il presente che nascendo muore, dilata il denso velo dove giace il futuro, se il tuo sguardo non scopre il varco.